Friuli nel mondo. Musiche del Friuli. 40ª trasmissione dedicata agli emigrati. Luci e profumi del Friuli in queste musiche che seguono, armonizzandoli, motivi di canti popolari. Nella prima, Anin Varin Fortune, una barcarola nata, come ci confidava l'autore, il poeta Enrico Fruc, a Marano Lagunare, una sera di luna. Compositore Franco Escher, due nobili ingegni immaturamente scomparsi. Anin Varin Fortune, da primavera e nun, nu spiete al clar di lune il vecchio barcarul. Il barcarul al reme, addio biel cil furlan, e sbarciarin insieme laiù, lontan, lontan. La seconda, la Toro Totele, è un'antica danza che i rurali conducevano al cospetto dei signori, plaudenti dalle scale esterne delle ville che ingemmano la regione. La rinnovavano nell'autunno, a coronamento dei raccolti. Danza evocatrice, pertanto, di un mondo sereno tra il 6 e il 700, quando Venezia stendeva la morbida zampa del vecchio leone sino all'Isonzo. Thank you. raramente la letteratura d'amore vanta la sobria bellezza di questa villotta, che non s'appunta sui soliti occhi dell'amata, ma soltanto sulle piccole mani di lei. Se bielis maninis, maninis d'amor, che li safatis la mame tu, vaiu, va blanc, sta fer culis mans, oi bambinute d'amor. Le ha fatte tua madre, o bimba d'amore,